rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, la rosa purpurea, il nostro appuntamento settimanale con il cinema, puntuale come ogni sabato per raccontarvi tutto il cinema che c'è, soprattutto in sala. Non ce n'è tantissimo questo fine settimana, è una settimana in cui un po' accontentarsi con qualche film di genere che funziona, qualche proposta di commedia, però insomma andiamo verso una parte della stagione nella quale bisogna andare a cogliere un po' più fior da fiore, se vogliamo, ma noi siamo qui apposta per raccontarvi questo. E allora cominciamo subito entrando nel vivo della nostra trasmissione, che come sempre vi farà giocare, vi farà vincere Blu-ray, vi farà anche andare a vedere un clamoroso spettacolo di musical di livello internazionale come il Rocky Horror Show. Quindi state con noi fino alla fine, perché vi racconteremo appunto come sono andate le cose per quanto riguarda i biglietti appunto della Rocky Horror Show. Però andiamo con ordine, cominciamo con il primo film, subito con un po' di adrenalina, un film che si intitola Run All Night, una notte per sopravvivere. Sì, Price. Ho un lavoro per te. Hanno ucciso due poliziotti e un paio di gangster imbecilli nel Queens. Tutta la città gli è dalla caccia. E voglio che tu arrivi per primo. Come si chiamano? Michael e Jimmy Conlon. Conlon? Ucciderei quel figlio di puttana anche gratis. Io voglio costituirmi. Non puoi ancora farlo. Sean se la prenderà con te, Michael. E se non riuscirà ad arrivare a te, con la tua famiglia. Adesso ti devi preoccupare di come restare vivo. E devi affidarti a me. Una notte. È tutto quello che ti chiedo. Ascolta tuo padre per una notte. Se non risolverò questa cosa entro domattina, andrò alla polizia e dirò che sono stato io a far fuori quei due poliziotti. Una notte. E poi non mi dovrai mai più vedere. Tutto in una notte, come tante volte al cinema, questa volta con i volti di Liam Neeson, di Ed Harris, di Vincent D'Onofrio e via via discorrendo, per la storia, anche questa, diciamo, già vista come plot, di un killer professionista che ha un amico, che è un boss mafioso e ha anche un figlio che a un certo punto si ritrova testimone involontario di un omicidio, e proprio questa sua qualità di testimone lo mette in pericolo di vita. Il padre dovrà rimettere in discussione antiche gerarchie e antiche amicizie. È in collegamento con noi Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Cerchiamo di mandare i nostri ascoltatori a vedere qualche buon film anche questa settimana. Magari non c'è tantissima scelta, però qualche proposta interessante non manca. Ti chiedo, a partire da questa? Direi di no, perché insomma abbiamo un problema con Liam Neeson che ormai diciamo è cronico. Questa seconda o terza età della sua carriera votata a mio parere al botteghino, che non è una cosa sbagliata in sé, ma lo diventa se diventa lo stereotipo, l'attore stesso, di un personaggio abbastanza improbabile. Con i Taken avevamo scoperto questo agente segreto che se gli tocchi anche l'animale domestico stermina un intero clan di europei dediti alla criminalità organizzata. Con questo troviamo il killer, guarda un po', quasi in pensione, che in una notte deve rivedere tutte le sue credenze, deve recuperare, guarda un po', il rapporto con un figlio che è in pericolo per colpa sua di fatto, e anche in questo insomma sembra di tornare a Taken solo dall'altra parte, e guarda un po', Liam Neeson sostanzialmente in una notte può fare tutto da solo, neanche fosse Superman o un supereroe, insomma pur non volando riesce a fare tutto quello che vuole. Il film in questione aveva anche degli spunti interessanti, non ultimo il fatto che insieme a Liam Neeson ti trovavi nel cast uno come Ed Harris, che può fare il suo anche in un cinepanettone, figuriamoci in un film di genere dove comunque calza un personaggio che gli va a pennello. C'è anche una certa ricerca di rovesciamento di alcuni archetipi. Vi faccio un esempio: nel film troverete un inseguimento tra criminali e polizia. Direte che cosa c'è di strano, è che sono i criminali che inseguono i poliziotti, non il contrario. Troppo poco però, perché il film in alcuni momenti secondo me diventa grottesco, sia nei dialoghi che nella struttura. Quello che vorrebbe essere originalità diventa eccesso, diventa scarsa credibilità. come ironizzavamo prima, e la regia non è all'altezza della suspense che vorrebbe creare, né del ritmo che si prevederebbe per quanto riguarda un film che si sviluppa in una notte sola, e alla fine diventa l'ennesimo film di Liam Neeson del nuovo millennio, in cui appunto ti ritrovi questa faccia estremamente granitica al servizio di una storia che invece è molto friabile. Quindi tendenzialmente, volendo bene ai nostri ascoltatori, non li manderei a vedere Run All Night. Anche perché abbiamo qualcos'altro da proporgli qui, anche un po' di quel genere noir, quindi restate qui perché qualche consiglio c'è. Volevo sottoporti un po' il box office internazionale e italiano, Boris, perché da noi, guarda, che notizie, primo in classifica Avengers, vabbè. 8 milioni raccolti nella prima settimana è più o meno quello che mi aspettavo, perché comunque è chiaro che questi sono film che danno il botto iniziale subito. Secondo posto per Adaline, l'eterna giovinezza. Questa è abbastanza una sorpresa, però sta andando benino anche in America, dove ha esordito al terzo posto nel weekend americano, quindi finché si sta difendendo piuttosto bene. Terzo posto per Mia madre, che ha totalizzato 2.129.000 euro dall'inizio dello sfruttamento, dall'uscita. Non ti sembra un filino poco per un film che chiaramente lavora molto anche durante la settimana, è un classico film da centro settimana, non da weekend, e in vista anche di un possibile rilancio su Cannes, però ti aspettavi di più? Allora, mi aspettavo di più, questo sì. Credo che molti siano stati impauriti dal tema, perché dopo La stanza del figlio, forse fare indagare il proprio dolore da Nanni Moretti è un'esperienza piuttosto dolorosa che devi decidere di affrontare con consapevolezza. Vero è che però nell'analisi del box office possiamo notare una partenza abbastanza lenta, anche come media copie, e poi però un proseguimento che non rispetta, e questo però è positivo, i soliti moltiplicatori della settimana, nel senso, e questo vuol dire probabilmente che la tenitura più positiva nella seconda settimana, che il passaparola sta funzionando. È un film probabilmente che rispetto ad Abemus Papam ha un argomento meno charmant e più profondo. E credo che quelli che sono andati a vederlo, io devo dire, mi è capitato di rivederlo in sala, il consenso è quasi bulgaro alla fine del film. non vedi persone insoddisfatte dal film. Questo mi fa pensare che anche grazie a Cannes, che arriverà fra una quindicina di giorni, la vita di mia madre sarà lunga. Questo sicuramente. No. Quello che ha perso adesso lo potrà recuperare. Cosa che invece sta già facendo, ed è secondo me la grande sorpresa di questo inizio 2015, Se Dio vuole, di Edoardo Falcone, che ha già superato i 3 milioni di incasso invece, ed è ancora quinto in classifica con ormai già parecchie settimane di permanenza. Quindi insomma, questo anche per sottolineare i meriti di un altro film italiano. Boris, rimani con noi, sentiamo come vanno le cose sulle strade, fra poco torniamo al Marigold Hotel. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta. So che questi un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. Ma qui, adesso, questi momenti non sono storie. Questo sta succedendo. Scegliete il libro. Mettete tra una pagina e l'altra le scene del film e sottolineate i passaggi chiave con le canzoni della colonna sonora. Tutto questo è Audiogrammi. Ogni domenica alle 20:15 vi raccontiamo una storia tratta da un libro e trasportata dal cinema alla radio. Audiogrammi. Domenica alle 20:15 su Radio 24. Anche in podcast su radio24.it. La rosa purpurea. Eccoci ancora qua, La rosa purpurea, seconda parte del nostro programma, e come promesso torniamo al Marigold Hotel. Era stato un film di un paio di stagioni fa, vado a memoria. Marigold Hotel, con un cast di diciamo attori fortissimi, bravissimi e un filino âgé della soprattutto inglesi, della scuola inglese, un film di John Madden con Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy e via via tanti altri. Lo ricorderete forse, chi l'ha visto, la storia di questi vecchietti arzilli che si ritrovano al Marigold Hotel in India, gestito da un ragazzino strampalato e da una madre molto severa, e che lì, in quella location, in quel posto, con il cuore dell'India che ti preme proprio addosso, trovano se stessi, trovano il posto dove stare, trovano il posto dove continuare a vivere, forse dove ricominciare a vivere. Un'orgia di colori, di suoni, quasi di profumi. Fosse stato in odorama, avremmo sentito sicuramente anche i profumi dell'India. Su un film su come ci si trasforma da turisti occidentali a persone che si liberano di tutti i gravami della cultura occidentale in un posto magico come quello. Il Marigold Hotel ha una gestione direi ottima da 8 mesi a questa parte. Abbiamo clienti che vanno e vengono, ma sin dall'inizio abbiamo questo gruppo di habitué e Sonny fa l'appello ogni mattina. Una molto valida precauzione. Verifichiamo che non siano deceduti nella notte. Mrs. Evelyn Grislade! Presente! Douglas Ainsley! Sì, ci sono! Mrs. Marge Hardcastle! Presente! Norman Cousins e Miss Carol Parr! Eccoci! Mrs. Muriel Donnelly! Ciò che ne rimane! Questo è l'appello che ogni mattina Sonny Kapoor fa appunto nel cortile di questo hotel decadente ma bellissimo, affascinante, per vedere se tutti gli anziani abitanti della sua struttura sono ancora presenti. Ritorno al Marigold Hotel, come dire, una seconda possibilità, un sequel vero e proprio. Tra l'altro il titolo originale è The Second Best Exotic Marigold Hotel e ha a che fare con la trama del film, perché in questo film c'è anche la storia di una rivalità anche amorosa fra il protagonista Sonny e suo cugino per un secondo hotel che dovrà nascere proprio in quella zona. Si gioca attorno alla visita di un emissario, di uno di quei commissari segreti che arrivano per valutare, no, gli hotel appunto in gran segreto, in incognito, con chiaramente l'errore di persona, lo scambio di persona e tutto quello che ne consegue in termini di commedia, guadagnando al film Richard Gere, che a livello di locandina male non fa mai. Boris, prodotto confezionato, prodotto elegante, magari senza grandi sorprese, però quando in campo ci sono questi attori davvero difficilmente si può andare male. Ma sì, c'è il vantaggio anche che quel ritorno nel titolo è di un'onestà quasi disarmante, nel senso, volete una copia del film precedente con qualche variazione sul tema, sostanzialmente più che un sequel, un prosequel, nel senso una prosecuzione di quella vicenda che vi aveva coccolato la volta scorsa, siete nel posto giusto. In fondo, che cosa si fa quando un hotel ci piace, quando un posto ci piace? Ci si ritorna. E ci si sta bene quasi sempre anche la seconda volta, e questo è esattamente il principio che ha voluto dare John Madden. Non ha cercato un sequel migliore del primo, né ha cercato un sequel che avesse dettami di originalità rispetto all'originale. Ha voluto proprio proseguire quell'esperienza in tutto e per tutto, aggiungendoci un Richard Gere che bello da star male lo è ancora, soprattutto se appunto il suo pubblico è age e quindi subisce il suo fascino ancora di più, e che si mette dentro questo cast straordinario. Io vi faccio solo due nomi che possono farci la testa, secondo me, anche recitando come faceva Gassman un menù del ristorante, che sono Judi Dench e quel Bill Nighy che a mio parere invecchiando diventa sempre migliore e che ha una capacità di leggere e tradurre i sentimenti, la timidezza, la difficoltà di vivere allo stesso tempo, però la capacità di adattarsi, che è straordinaria, è quasi soprannaturale. John Madden ci mette quella sua capacità di confezionare bene dei prodotti audiovisivi, non sarà mai un maestro del cinema, ma sarà sempre uno a cui poter affidare un prodotto e uscirne abbastanza soddisfatti, cosa dirvi? Alla fine è un film che si può vedere in tutti i casi. Se non avete visto il Marigold Hotel non è un problema, anzi troverete quella situazione di sorpresa che altrimenti non avreste. Se l'avete già visto e l'avete apprezzato, ritroverete quell'atmosfera, ritroverete quei colori, ritroverete quella voglia di uscire in sicurezza, nel senso che appunto, no, quella voglia di esotismo, quella voglia di scappare dai disvalori occidentali per rifugiarsi anche in alcuni stereotipi oltre che valori altri. Mantiene anche gli stessi difetti, cioè un certo colonialismo culturale, c'è questo cast così british, così simpatico, così acee, così di classe, che va in India quasi come se fosse ancora il giardino dell'impero. Sull'aspetto culturale indiano e sull'aspetto anche visivo indiano c'è poco se non la cartolina che siamo abituati a vedere, e alla fine c'è abbastanza approfondimento, ma quel giusto che non ci debba turbare abbastanza. È una commedia delicata, divertente, che fa il suo, fa esattamente quello che promette e va benissimo. E va benissimo, e va bene, anche perché negli stereotipi, come hai detto tu giustamente, Boris, ci si rifugia anche perché dentro ci si sta molto caldi, molto comodi, quindi sono luoghi dove amiamo rifugiarci anche perché ci sentiamo sicuri. Ed è proprio un film rassicurante sotto un certo profilo, addirittura sull'anzianità, sulla terza età, quindi come dire. Ogni tanto, ecco, anche tirare, hai fatto prima il paragone, più che il paragone hai fatto l'esempio appunto del film di Nanni Moretti, ecco, ogni tanto tirare anche i remi in barca sotto quel profilo lì magari aiuta. Andiamo a giocare insieme perché non ci siamo dimenticati di voi e dei Blu-ray che dobbiamo regalarvi. Sentiamo la prima traccia del film misterioso di oggi. Sono venuto a dirti che sta per giungere qualcosa che va ben oltre me e te. La Rosa Purpura è a @radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci il titolo di questo film e il vostro indirizzo di posta privata per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film piuttosto recente, di cui vi faremo ascoltare un'altra traccia fra pochi minuti. Andiamo avanti invece con le proposte della settimana. Abbiamo detto prima che Run All Night non era l'unico film con atmosfera adrenalinica e anche un po' noir di questa settimana. Sicuramente meglio per qualità, per spessore, è Bambino 44, Child 44, il bambino numero 44. Qualcuno di voi ricorderà la storia del mostro di Rostov, Russia sovietica anni 50, un serial killer spietato, e la ricerca, la caccia all'uomo che si scatena non senza ostacoli da parte dello stesso regime sovietico. C'è stato un terribile incidente. Il figlio di Alexei è stato investito da un treno. Un treno? Sostiene che suo figlio sia stato ucciso. Hanno massacrato mio figlio! E tu non fai niente? L'assassino è ancora in libertà. Tutti bambini di età tra i 9 e i 15 anni. Sono 43. 44. Anche il figlio del mio amico è stato ucciso. Sarà proprio il bambino 44 a far scatenare la caccia, ma anche a far venire fuori tutte le magagne del governo comunista, il fatto che non esistono omicidi in paradiso, come si usava dire, no? E che quindi quasi si neghi l'esistenza di un serial killer, perché lì un serial killer non ci può essere. Fortunatamente c'è chi ci crede e ne va a caccia. Cast anche qui altisonante: Tom Hardy, Gary Oldman, Noomi Rapace e via discorrendo, Vincent Cassel per dirne un altro. Boris, qui le atmosfere ci sono e il film anche. No, qui c'è un grande film che viene da un grande libro, io ve lo consiglio, è un libro pesante in tutti i sensi, anche proprio fisico, ma straordinario e pieno di suspense, di quelli che difficilmente vi lasciano in pace anche quando li chiudete. Il film il film di Daniele Spinosa trova esattamente quello spirito paranoico, folle, quell'Unione Sovietica che è un incubo che cerca in tutti i modi di travestirsi da sogno, quel paese e quel sistema che prova una strana perversione nel voler costruire l'oscurità travestendola da luce. tutto sta in quell'organizzazione in cui sta il protagonista, l'MGB, che sostanzialmente mette in carcere solo degli innocenti, che forse è la metafora migliore per raccontare quella situazione. E cast straordinario, questa è una cosa che accomuna più o meno tutti i film di questa settimana. Tom Hardy è uno dei migliori della sua generazione, Noomi Rapace forse non è alla sua altezza, ma ha una faccia che basta da sola per raccontare un film. Gary Oldman, dopo aver passato una vita a raccontare personaggi sopra le righe che diventavano famosi per le loro frasi ad effetto, adesso si sta specializzando, dimostrando il suo talento straordinario in personaggi che quasi faticano a farsi vedere e che per questo sono straordinari, no? Come la Talpa o come qua. E il film ha veramente un grande merito di regia, di essere elegante e allo stesso tempo essenziale, di avere un ritmo incredibile, un altissimo tasso di imprevedibilità, persino per chi ha letto il libro, e di avere una gestione della suspense che veramente non si vedeva da molto tempo. È una macchina perfetta, un meccanismo a orologeria, e ha il pregio di raccontarci qualcosa che forse abbiamo dimenticato dopo tanti anni dalla caduta del muro di Berlino, ma che è utile ricordare. Il per non dimenticare non vale solo per cose successe 70 anni fa, ma anche per cose finite qualche decennio dopo. Sono, diciamo, situazioni cugine, sorelle che hanno contraddistinto, e qui torniamo ai valori occidentali, che hanno contraddistinto l'Occidente, che hanno purtroppo scritto anche l'identità nell'ombra. La cosa interessante è che questo film va talmente tanto a pungere nel vivo un certo tipo di anima sovietica che ancora oggi in Russia è stato proibito vederlo, e questo dovrebbe raccontare molto dell'efficacia e della forza del film. Okay. È di sicuro il film della settimana. Anche perché mi veniva in mente che come dire, l'establishment del governo russo di oggi non è tanto distante, diciamo così, da alcune negazioni e da alcuni metodi del passato. Boris, rimani con noi, perché fra poco parliamo di un altro film che a me è molto molto piaciuto, devo dire, l'ho trovato molto divertente, in piena media con il suo regista, che si intitola Le streghe sono tornate, e sarà con noi Nicola Nocella per raccontarci il suo ultimo film, Le frise ignoranti, ma anche per raccontarci molto della sua carriera. Restate con noi. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova, oppure adatti quella che hai già. E poi è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, La Rosa Purpurea, terza parte. Un altro film di quelli che escono in sala questo weekend è Le streghe son tornate. Lo firma Alex de la Iglesia, regista cinquantenne che ha sempre avuto il marchio, la capacità di tenere insieme il grottesco, il noir nella sua filmografia, sempre con vene di umorismo nero davvero straordinarie. Succede così anche nelle streghe sono tornate, che mette insieme la crisi economica, la crisi familiare del nostro presente con l'action movie, proprio con un film di rapina e fuga. Infatti è quello che succede all'inizio di questo film, una rapina in un compro oro da parte di un padre separato che per mantenere il figlio ormai deve andare a rubare, e soprattutto quello che succede dopo questa rapina che diventa film, diventa molto molto particolare. Sentiamo la clip. Un soldato verde. Un bambino, e lui l'ha letto. Hai portato il bambino? Sei matto? Mi sono rotto i coglioni dell'assegno di mantenimento dei giudici e di quella strega di tua madre. Silvia, perdonami, ma io ti ho mai chiesto che cosa dai da mangiare al bambino? Accelera! Non toccarla, cazzo, mi hai spaventato. La stregoneria è nata in quella caverna. E noi che cosa siamo? Alla tua età una ragazza deve solo drogarsi. Fottere come una cagna, mentire spudoratamente e ingannare gli uomini. È arrivato il momento della nostra vendetta. Dove vai? A impedire che tua madre distrugga la civiltà occidentale. Boris, un film, anzi quasi due film, un film di rapina all'inizio, rapina e fuga all'inizio, devo dire la scena iniziale, i primi 10 minuti sono folgoranti, anche grazie alla straordinaria fotografia di Chico Della Rica, e poi dopo la fuga un film di stregoneria in mezzo alle foreste del Paese Basco, e anche lì c'è crema per il cinefilo. Sembra quasi in questo Le streghe sono tornate che in certi momenti Alex Della Iglesia abbia incontrato Pedro Almodóvar. È verissimo, sono d'accordissimo. Sembra che abbia incontrato Guillermo del Toro e Pedro Almodóvar che stavano a pranzo e si sia unito al pranzo. E parafrasando il titolo, oltre che Le streghe sono tornate, è tornato anche Alex Della Iglesia dopo la sua ballata veneziana, che già prometteva molto bene. Devo dire che è una bellissima notizia, perché è uno dei registi più creativi e che più si divertono a fare cinema, e non è un piccolo particolare. Qui Della Iglesia vuole farci godere come spettatori e vuole godere lui come regista, che è una caratteristica appunto che sia in Pedro Almodóvar, magari in maniera più depressiva e malinconica, sia in Guillermo del Toro si ritrova. E qui c'è anche l'aspetto che ritroviamo quel tipo di regista che forse con Oscar Mardes si era perso, e con il documentario su Messi si era trattenuto. Ritroviamo anche quella sua voglia selvaggia, quasi infantile, di politicamente scorretto, perché al di là dei 10 minuti folgoranti, come dicevi tu, soprattutto per quanto riguarda la regia, poi il film di stregoneria è un modo per il cinquantenne Della Iglesia per attaccare l'universo femminile con gioia, cioè per dichiarare tutto l'amore e l'ammirazione che ha per l'universo femminile, ma anche tutta la diffidenza che ha, con un maschilismo che però è estremamente autoironico. Verrebbe da dire che Della Iglesia ci vuole dire che non tutte le streghe sono donne, ma tutte le streghe lo sono, insomma, chiaramente, visto il nome. E l'impressione è che invece ci voglia dire ancora un'altra cosa, che le donne sono tutte streghe, che le donne sanno annichilire un uomo e fargli un incantesimo anche quando non hanno poteri soprannaturali, e che gli uomini sono così inferiori da riuscire sempre a cascarci, per quanto furbi possano essere o si credano. E questo c'è tanto Almodóvar, per questo trovo azzeccatissimo il tuo paragone. Nel complesso, che cos'è? Un film che ne ha dentro tre, almeno per toni, per grammatica cinematografica, anche per piste narrative, e questi tre sono Della Iglesia, poteva tenerli insieme e ci riesce benissimo. E possiamo dire che c'è un altro film della settimana, perché Bambino 44 e Le streghe sono tornate sono esattamente complementari, quello che ha l'uno non ha l'altro, e quindi potete in un fine settimana vederli entrambi e godere completamente. Perfetto, Boris, allora abbiamo promosso un altro film, grazie anche questa settimana, ci sentiamo sabato prossimo. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora buon cinema e anche buone visioni domestiche, se indovinate il nostro film misterioso. Sai che c'è qualcosa di sbagliato, lo hai sempre percepito. I tuoi genitori non ti hanno mai detto la verità. Quale verità? L'anno della tua nascita ci fu una profezia che sarebbe nato un condottiero per liberarci. La Rosa Purpurea @radio24.it, la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Scriveteci titolo e vostro indirizzo, provate a vincere questo Blu-ray che sveleremo fra 7 giorni. Allora, adesso passiamo a un personaggio che è ancora nelle sale italiane con un film uscito la scorsa settimana che si intitola Le frise ignoranti. Le frise, per chi non lo sapesse, ma chi è che non lo sa? Basta essere andati una volta in Salento in ferie, insomma, sono delle fantastiche panette secche che si vengono inumidite, poi dopo mangiate col pomodoro e con l'origano. Spero di avervi fatto venire fame. Allora, Le frise ignoranti di Antonello De Leo, opera prima, con, tra gli altri, Nicola Nocella, che è in collegamento con noi. Ciao Nicola. Ciao Franco, ciao a tutti quanti. Ben ritrovato. Quando si parla di cibo, te sei proprio fermo. Ma io sono professore di cibo. Ti vedo, sei un master. Soprattutto di cibo pugliese, come dire, non mi manca il know-how, come direbbero quelli che se ne intendono. Anche a te però non manca, devo dire, il know-how. Io insegno. Esatto, insegni. E anche tu sei di quelle parti dove si svolge, tra l'altro, questo Le frise ignoranti, che è ancora in una quindicina di sale in Italia, una commedia molto fresca, insomma, che vale la pena di vedere, che annovera nel cast anche volti, come dire, molto popolari che hanno, hanno fatto storie, come Lino Banfi per esempio, per dirne uno. Ma raccontaci un po' brevemente questo, questo road movie tra Puglia e Basilicata che rappresenta l'ossatura narrativa del vostro film. Beh sì, esatto, cioè comunque il film si dipana fra Puglia e Basilicata alla ricerca del personaggio di Francesco, Francesco Pannofino, che è il padre di uno dei quattro, delle quattro Frise Ignoranti, che in realtà è il nome bruttissimo di una band scalcinatissima che ha bisogno di ritrovare il padre di uno di noi, e per trovare questo padre che forse ha deciso di suicidarsi noi dobbiamo inseguirlo passando tra stranissimi avvenimenti. Insomma, passiamo da una tatuatrice giamaicana, da una psicologa più pazza ancora di noi, andiamo a finire poi da un neoborbonico che inscena ogni settimana la battaglia con i garibaldini, ma la vince perché lui, appunto, interpretato da Lino Banfi. Probabilmente quella è la sequenza più divertente del film, questa guerra fra garibaldini e neoborbonici, che di solito vincono i neoborbonici, ma siccome arrivo io assieme a al mio amico, fraterno, nonché collega Davide Donatiello, che è un attore molto bravo che fa parte appunto delle Frise Ignoranti, arriviamo noi e quella volta loro perdono. E il film è abbastanza divertente, devo dire la verità, soprattutto al sud è un film che sta andando molto bene a livello di incassi e piace molto alle persone. Poi mi rendo conto che magari a Milano ci si chiede ci si chiede davvero se possa essere o meno un film godibile, però secondo me sì, insomma. Assolutamente godibile. A tutte le latitudini e fuori ancora, appunto, soprattutto nelle sale del sud, per cui per chi ascolta La Rosa diciamo così sotto la linea gotica si può tranquillamente andare al cinema anche nella nostra Puglia, anche nella nostra Puglia ce n'è ancora un po' di sale che lo stanno. In Puglia è praticamente quanto è in giro come gli Avengers, anche perché tu hai un po' il fisico degli Avengers, diciamolo, cioè diciamo la verità, io sembro Robert Downey Jr. un pochino sì insomma. Se uno ti guarda di sfuggita potrebbe capire. Ascolta Nicola, invece Nicola Nocella che fa il buffoncello, ma perché è un ragazzo per bene, somiglia a un grandissimo attore, a John Belushi, cioè, e quindi insomma lo ricorderete David di Donatello? No, nastro d'argento, perché poi quelli si arrabbiano fra di loro se sbaglio una cosa. Hai ragione, nastro d'argento, ma io volevo dare un appiglio al nostro pubblico per ricordarti il film di Pupi Avati, Il figlio più piccolo, e poi anche tanti progetti proprio su John Belushi, uno straordinario che hai fatto proprio per raccontare un po' il personaggio. Tu hai fatto un lavoro teatrale con Omar Pedrini, straordinario, Sangue impazzito, che ha avuto una stagione fantastica anche qui a Milano al Teatro Franco Parenti. È uno spettacolo che ci sarà la possibilità di rivedere per caso, di qualche ripresa nei prossimi mesi o fra un anno o due? Ma io spero proprio di sì, insomma quello è un atto d'amore nei confronti di uno dei personaggi più amati in assoluto, ma proprio tout court da generazione a generazione in tutto il mondo. Io e Omar abbiamo fatto semplicemente davvero un atto d'amore, cioè non era né uno scimmiottare né nulla. Tu insomma so che sei venuto a vederlo e ti è piaciuto e quindi ti ringrazio, però era appunto un regalo da parte nostra. L'idea era che morto John Belushi arrivasse un angelo sulla terra e che quest'angelo assieme all'anima di John avrebbero dovuto decidere il destino dell'eternità di John Belushi, quindi avrebbero dovuto decidere insieme se andare all'inferno, al paradiso o al purgatorio, e questa cosa veniva fuori nell'ora e mezza di spettacolo, intervallata anche da Omar che cantava e suonava chitarra. Tra l'altro eravamo senza nessun tipo di impianto acustico, senza niente, noi avevamo ricostruito la stanza dove John Belushi è morto e il pubblico era attorno, come ti ricordi, era attorno a noi due che recitavamo. Assolutamente, era uno spettacolo dentro il pubblico praticamente. Esatto, è una cosa molto bello. E speriamo che qualcuno nei teatri d'Italia, come dire, ti dia la possibilità di riportarlo in giro, perché è uno spettacolo di quelli che possono diventare un vero e proprio evergreen. Nicola, grazie per essere stato con noi qui alla Rosa Purpurea. Ricordiamo Le Frise Ignoranti, finché ci sono al cinema, andateli a vedere e noi ti aspettiamo per i tuoi prossimi progetti. A prestissimo, grazie Franco, grazie alla Rosa. Ciao ciao! Viabilità, fra poco torniamo, parliamo del Rocky Horror Show. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... L'Europa è sempre più presente nella vita quotidiana dei giovani italiani. Come migliorare le cose? Come rendere l'Italia un paese inserito nel flusso di circolazione dei talenti? Vogliamo sapere la vostra! Giovani Talenti è alla ricerca di 4 under 40 da inviare all'Europarlamento di Strasburgo e altrettanti cui consegnare un pass per visitare il padiglione europeo a Expo 2015. Come fare? Basta sintonizzarsi ogni sabato alle 13.30 su Radio 24. Tutte le settimane vi proporremo uno spunto di riflessione su cui potete inviarci una proposta in 140 caratteri via email. Fino al 16 maggio cogli l'occasione per dimostrare il tuo talento e lanciare proposte generazionali. L'iniziativa si svolge in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato con Giovani Talenti. La Rosa Purpurea. E siamo ancora insieme alla Rosa Purpurea per parlare del Rocky Horror Show che comincia il 5 maggio, apre i battenti il 5 maggio a Milano al Teatro della Luna. Dopo 10 anni di assenza arriva il Rocky Horror Show e arriva nella sua versione original, cioè quella della compagnia londinese, uno spettacolo teatrale stradivertente che è diventato un cult per tutta una generazione, anzi per più di una generazione. È diventato un film di grandissimo successo. Adesso torna sul palcoscenico del Teatro della Luna, ma poi girerà per l'Italia, andrà al Ravenna Festival. Insomma, è davvero uno spettacolo da vedere, da non perdere, appunto, ma maggior ragione perché si tratta dell'edizione originale interpretata appunto dal cast londinese. Ma c'è un italiano con noi ed è l'attore Maurizio Lombardi che è in collegamento telefonico. Ciao Maurizio. Ciao a tutti. Ciao, bentornato, anzi ben trovato alla Rosa Purpurea. C'è un italiano sul palcoscenico del Rocky Horror Show perché il narratore viene scelto nei vari paesi in cui lo spettacolo si muove. E allora sta a te narrare in un minuto ai nostri ascoltatori, magari quelli più giovani, che cos'è, che cosa ha rappresentato, cosa rappresenta ancora il Rocky Horror Show. Beh, questa è una grande edizione, in versione deluxe. La storia sono due sposini americani, puritani a livelli incredibili. E niente, a un certo punto gli si fora la ruota della macchina, loro ritrovano questo castello di Frankfurt e di conseguenza entrano dentro dove c'è il riffraff, il maggiordomo che li accoglie, e da lì inizierà per loro un delirio tra ghepierre, scarpe con il tacco, Janet andrà con Frankfurt, Frankfurt andrà con Brad, il suo fidanzato, sarà un miscuglio di sensualità. Musiche straordinarie, perché il musical è fantastico proprio per questo, perché Richard O'Brien, il creatore, essenzialmente è un grande musicista che ha fatto queste musiche che ormai sono immortali, come I'm Going Home e altre incredibili, insomma. E devo dire che come storia regge tantissimo, nacque nel 1973 ed è un musico che ancora oggi mantiene tutta la sua potenzialità di sensualità, come ho detto, perché poi alla fine rimarranno tutti in scarpe con il tacco, ghepier e calze a rete, ed è fantastico, una specie di Priscilla eterosessuale, diciamo, esatto, un po'. Però è coinvolgentissimo perché mischia Frankenstein con con i racconti americani del primo di Novecento. Insomma, è veramente uno spettacolo da non perdere. Ricordiamo il cast originale del film, perché appunto magari è quello che i nostri ascoltatori ricordano di più, ma una giovanissima Susan Sarandon, sì, nei panni di Janet, Tim Curry, Frankenfurter, Richard O'Brien stesso che faceva Riff Raff, Neil Campbell, insomma, già quello, a Meatloaf, rocker straordinario. Ecco, c'era già tutta quella voglia di trasgressione rock dentro un musical sexy, e quindi sesso e rock insieme sono una miscela esplosiva. Sì, assolutamente. Ma poi bello è che io facendo le prove con la compagnia inglese, quindi risentendo, proprio toccando con mano ciò che è il Rocky, è attualissimo, è potente, è sconvolgente ancora. Veramente, ora io non voglio, però dopo uno spettacolo di genere me ne voglio andare a casa e fare l'amore subito. Eh beh, insomma, allora qui abbiamo trovato un afrodisiaco naturale. Allora andate tutti a vedere il Rocky Horror Show dal 5 maggio alle 21 al Teatro della Luna, lunga tenitura fino al 20 maggio, e poi in giro per l'Italia avremo modo di ricordarvi. Lo ricordo chi saranno i nostri ascoltatori che andranno in coppia, peraltro, a vederlo il 5 maggio, il giorno della prima: Chiara Crespi e Francesco Siboldi, che hanno vinto il nostro concorso della scorsa settimana. Grazie davvero a Maurizio Lombardi, attore e narratore del Rocky Horror Show. Grazie a voi. E allora, abbiamo parlato del Rocky Horror Show, arriva il momento di tuffarci sul cinema da vedere in casa, a partire dalla soluzione del game della scorsa settimana. È finito il mondo e la vita per me e per tutti quelli che pensano e sentono, sicché non vivono fino alla morte se non quei molti che restano fanciulli tutta la vita. Si trattava di Il Giovane Favoloso, uno dei più bei film italiani di questa stagione, che ha aperto, anzi, la stagione alla Mostra del Cinema di Venezia. Lo hanno indovinato per primi, riceveranno a casa una bellissima edizione in Blu-ray Barbara Gambini di Iesi e Claudia Brunelli di Osnago, vicino Lecco. Saranno loro a ricevere il Blu-ray che ci facciamo raccontare dagli amici di Film TV. È in collegamento con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Si esce in DVD e Blu-ray il film di Mario Martone, un grande regista del cinema e del teatro italiano, che dopo aver portato sul palcoscenico una versione onirica delle operette morali, dedica questa volta Leopardi un film biografico bellissimo che sa coniugare il cinema didattico alla Rossellini e una reinvenzione cupa e molto politica della storia d'Italia come il suo noi credevamo. E qui fa del Leopardi, interpretato da Elio Germano, il protagonista di un romanzo di formazione che sa mettere in luce i vizi di un paese e sprofonda anche nelle tenebre interiori. Un grande successo di pubblico a cui DVD e Blu-ray sono d'altezza artistica e tecnica del film. Andiamo avanti con le segnalazioni dei palinsesti televisivi della prossima settimana. Rimaniamo subito a domenica 3 maggio, dove passa nel pomeriggio un super classico della commedia come Operazione Sottoveste. Sì, una farsa bellica tra le più riuscite del genere, uno di quei film che non si smette mai di rivedere, basato sull'anomalo incontro tra due star hollywoodiane, Tony Curtis e Cary Grant, mattatori assoluti in un film veramente eccentrico che da fin di guerra diventa una road surrealista, rosa e burlesca, una commedia paradossale e spassosissima da uno dei giganti della commedia americana, il mai troppo osannato e compianto Blake Edwards, che è davvero un regista tutto da riscoprire. Operazione Sottoveste, quindi, su Rai Movie alle 17.30 di domenica 3 maggio. L'altra nostra segnalazione è il giorno dopo, lunedì 4 maggio alle 23.45, le torbide e sensuali atmosfere di Velluto Blu. Sì, un orecchio trovato in un prato nella profonda provincia americana apre il vaso di Pandora dell'inconscio di una nazione, e quindi le villette, le facce pulite dell'America si trovano di fronte al kitsch perturbante, una sorta di soap opera degenerata, piena di barocchismi sfrenati, massacri, sentimentalismi retro, in una sorta di noir frantumato in cui gli attori sono impazziti, il film continua ad andare avanti in uno stato di alternazione progressiva, con una messa in scena che davvero fa arte, distorcendo i luoghi e le figure della provincia e del cinema americano. Veramente un capolavoro da David Lynch. Velluto Blu è quindi su Iris alle 23.45 di lunedì 4 maggio. Grazie a Giulio San Giorgio e amici di Film TV, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie Franco e alla prossima. E siamo giunti così alla conclusione della nostra trasmissione e voglio solo ricordare una iniziativa che parte il prossimo mercoledì a Milano. Si tratta degli Univision Days organizzati dall'Università Ulm con la Univision, che è la società, l'associazione che del settore dell'home video. Saranno 4 giorni davvero densi di proiezioni, dibattiti, punti della situazione, incontri con registi e attori per parlare dello stato di salute dell'home video, dei suoi sviluppi futuri, ma anche per vedere tanto buon cinema. E quindi cercate Univision Days su internet, troverete tutte le specifiche. È tutto davvero anche per questa settimana, grazie per averci seguito, ci sentiamo fra 7 giorni, un saluto da Franco D'Assisi.